Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ben arrivati a bordo del ferryboat, io sono Insergante, il navigatore. La puntata di oggi è dedicata al design. Cosa c'entra il design con l'economia sociale? C'entra perché il design, lo vedremo, l'abbiamo classificato come la tangenziale del mercato, come il raccordo anulare, per chi ci ascolta da Roma, un elemento chiave nella relazione fra il marketing, l'azienda e i consumatori, quindi, visti i tempi che corrono, decisamente il punto cruciale. Un vaso altoparlante, un palo della luce fotovoltaico, un giubbotto Wi-Fi. Per Business Week, Stefano Marzano è uno dei più influenti best leader per l'innovazione a livello internazionale. Nerio Alessandri, geniale padrone inventore Tecnogym, ha messo insieme la corsetta in palestra con internet. Volete sapere come va a finire? Si definisce un giappo, americ, tedesco, franco-italiano. È una stella nel firmamento del design internazionale, con un nome ad effetto, Philip Stark. Decisamente un bel viaggio con personaggi, avete visto, al di fuori della media, al di sopra del normale. Il primo è un personaggio che vola decisamente alto e uno di questi voli sopra Las Vegas è diventata un po' la sua missione. Il futuro è costruito da coloro che se ne assumono la responsabilità da subito. Questo significa che tutti noi possiamo contribuire a plasmare il futuro. Le grandi aziende giocano un ruolo predominante nel determinare la qualità della vita, poiché immettono sul mercato un enorme numero di prodotti. Queste aziende dovrebbero innanzitutto assumersi le loro responsabilità e rendersi conto del loro potere. Chi di noi lavora per queste aziende deve fare la sua parte per contribuire a un futuro migliore per tutti. Questa frase mi piace molto, l'ho usata tantissime volte e la considero un po' un'epigrafe. La cosa straordinaria è che è stata scritta nel 1992, stiamo parlando di 18 anni fa, da Stefano Marzano, che è qui con noi. Stefano Marzano, ciao. Ciao. Stefano Marzano è un italiano emigrato in Olanda, dove da Eindhoven dirige il Philips Design, che è un grande laboratorio mondiale, anche se porta il marchio dell'azienda di elettronica, un grande laboratorio di intelligenza, di visione antropologico, sociologico e chi più ne ha più ne metta. Stefano, il futuro di cui parli nel 1992 è drammaticamente d'attualità, è come se non fossero passati 18 anni. Beh, infatti gli aspetti di cui parlo in quell'articolo del 92 non sono cambiati, perché in linea di massima può cambiare il contenuto di ciò che si fa, ma i principi non cambiano, e cioè che c'è una ragione fondamentale per operare ed esistere, che è quello di dare più contenuto a un'idea di civilizzazione che si muove da uno spazio locale a uno spazio nazionale, internazionale, allo spazio globale. Senti, ma secondo te l'azienda, tu che vivi una grande azienda, una multinazionale globale ormai da decenni, si rende conto di avere questo potere sull'immaginario collettivo, di poter influire non solo sull'acquisto del prodotto, ma anche sugli stili di vita, di consumo e quindi sulla morale, sull'etica, sulla politica, sulla cultura? Ma oggi come oggi, senz'altro tutte le aziende che operano a livello globale si trovano proprio al confine della globalizzazione, ne comprendono tutti gli aspetti e hanno senz'altro una profonda coscienza delle proprie responsabilità. Poi chiaramente si tratta di saperle prendere, queste responsabilità, e di saper operare a secondo delle responsabilità nel modo più corretto. E veniamo al design, come l'abbiamo definito, come tangente, come raccordo anulare, come elemento chiave nel rapporto fra marketing, aziende e consumatori. Il design non è, come la gente ha sempre immaginato, soltanto forma, ma è anche contenuto in un prodotto. Ma senz'altro partirei più che altro dal significato proprio fondamentale della parola design come disegno, come progetto e proprio come connessione fra la trasformazione sociale, economica, politica e l'intreccio di tutto questo con la tecnologia che è il mezzo fondamentale per dare forma alle trasformazioni e si pone veramente come ponte e connettore fra l'uomo, il proprio sviluppo in un indirizzo inteso positivo verso diciamo la civilizzazione e tutto ciò che è necessario avere a disposizione per realizzarlo, quindi un ponte fra la tecnologia e l'uomo verso uno sviluppo di civilizzazione basato su dei principi universali che tutti condividono, che possono essere quelli della convivenza pacifica, della fratellanza, del benessere, della salute e tutto questo rappresenta il significato centrale del progetto o del disegno e quindi diciamo del design che poi come anche diciamo professione fin dall'inizio del secolo scorso si è sempre prefisso un ruolo sociale importante. Ecco, c'è una delle tante cose che conosco di te, della tua storia del mondo del design, c'è un aspetto che mi ha sempre intrigato molto che è la materializzazione delle tecnologie, che è un po' un elemento che ti contraddistingue. Ecco, che cos'è la smaterializzazione delle tecnologie? Beh, parliamo in questo caso soprattutto delle tecnologie digitali, quindi delle tecnologie che appartengono non tanto alla trasformazione della materia, ma al veicolo su cui il contenuto poi si muove, quindi oggi parliamo naturalmente di internet, parliamo di tutto ciò su cui diciamo si basa social media, però quando parliamo delle tecnologie legate al digitale, all'elettronica, parliamo di tecnologie dell'invisibile. Poi parliamo anche di tutto ciò che è lo sviluppo della miniaturizzazione legata anche alla riduzione, quindi alla riduzione della componentistica, alla riduzione della materia, fino a portare a questo punto una nuova relazione fra quella che è la prestazione di un oggetto e la propria forma. Cioè la forma non è più legata alla prestazione. Infatti noi abbiamo citato il vaso che fa l'altoparlante, il palo della luce che è un palo fotovoltaico e così via. E a proposito di tecnologia, ovviamente la tecnologia serve anche a stare bene, per esempio a fare dello sport. Alonso, grazie dell'intervista. Ti chiedo innanzitutto di raccontarci il tuo allenamento durante la settimana. Beh, il mio allenamento cambia un po' dipendendo dal punto della stagione dove siamo. In inverno facciamo una preparazione un po' più di forza in palestra con i pesi, e cardio con la bici, tapis roulant, nuotare, tutto quello che è. Poi durante il campionato facciamo un allenamento un po' più semplice, un po' più leggero, dove non vogliamo caricare troppo il corpo e facciamo cose più semplici, anche qualche sport per divertirsi come il tennis, come qualcosa per anche ridere. Cosa c'entra Alonso a bordo del ferryboat? C'entra perché quando ha registrato questa intervista era in visita negli stabilimenti di Tecnogym, il cui presidente Nerio Alessandri è qui con noi e con Stefano Mazzano. Presidente, buongiorno. Un saluto a tutti quanti. A tutti quanti che la conoscono e per cui lei è un mito, perché Tecnogym è come dire, la forma sportiva e le palestre per definizione. Lei è quindi un'icona che rischia di diventare anche un mito nel momento in cui ha avuto questa bella idea di mettere internet, di mettere gli schermi sulle sue macchine e quindi si può andare a passeggiare navigando, leggendo le email, così? Sì, devo dire che internet è entrata nella vita, non solo nel lavoro, così come nel tempo libero, ma anche quando si fa ginnastica da ora, perché Technogym ha permesso di avere online il web come un vero iPhone montato sulla display della attrezza ginnastica, e permette di divertirsi, di intrattenersi, quindi vedere un film, leggere il giornale, poter consultare le proprie mail, andare su Facebook o vedersi i video di YouTube. Quindi questo modo permette di guadagnare tempo, quindi le persone che non hanno tempo oggi non hanno più scuse per non fare ginnastica, e anche, devo dire, un modo per rendere divertente e attraente l'esercizio fisico. Quindi la tecnologia aiuta le persone più sedentarie, più pigre. No, io appartengo a quelle, infatti uno dei motivi per cui non la facevo è perché era noiosa. Adesso certamente non è più noioso, ma mi chiedo, dal punto di vista squisitamente sportivo agonistico, se così si può definire, non è, come dire, cosa succede fra il corpo e la mente? Non c'è un bisticcio possibile lì? No, assolutamente, noi siamo fornitori ufficiali da qualche giorno anche delle prossime Olimpiadi di Londra 2012, e ne abbiamo fatte altre 4, e abbiamo visto l'evoluzione in questi 20 anni del mondo agonistico, e oggi tutti vogliono dei propri dati, vogliono consultare i propri risultati, quindi avere a bordo un computer, avere a bordo internet significa anche fare il proprio track record, i propri risultati, confrontarsi con altri campioni e avere sempre a portata di mano un confronto per vedere il risultato e il miglioramento. Quindi la tecnologia, se è facile da utilizzare, e Apple ne è una dimostrazione, è un grande aiuto allo stile di vita, alla qualità della vita. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. A bordo con Enzo Argante, Nerio Alessandri, presidente di Technogym, e Stefano Marzano, uno dei designer più affermati del mondo. Alessandri, a proposito di designer, lei stava parlando di Apple, che, come dire, ha vinto la sfida globale proprio grazie al design. Molto incide nel successo strepitoso mondiale di Technogym questo elemento. Il design è parte del nostro DNA, del Made in Italy. Io sono un designer come il maestro Stefano Marzano, e la nostra azienda ha fatto sì che l'attrezzo ginnastica possa essere complemento d'arredo, possa essere parte della vita delle persone, perché attraverso il design è possibile emozionare le persone, fare vivere le persone un'esperienza unica ed irresistibile, che passa attraverso l'ergonomia, passa attraverso l'equilibrio, passa attraverso la multisensorialità. Quindi significa colore, significano forme, significano materiali, al tatto, la qualistica. Quindi Technogym ha vinto contro i concorrenti più agguerriti americani e di tutto il mondo grazie alla nostra sensibilità del design e grazie al fatto che abbiamo interpretato il design in un approccio a 360 gradi, quindi dalla facilità dell'utilizzo del prodotto all'ergonomia, all'integrazione con l'ambiente, e far vivere il wellness, quindi questo benessere, diciamo, come stile di vita, in modo divertente e emozionante. Questa è musica per le orecchie del maestro, come l'ha giustamente chiamato lei, Stefano Marzano, vero? Beh, certamente. Questa è la dimostrazione di quello che design vuol dire, che, appunto, impropriamente definito o concepito come forma, il design addirittura incide sugli stili di vita, come ha indubbiamente inciso Nerio Alessandri, Stefano. Ma è senza dubbio, e chiaramente il fenomeno Technogym è diventato un fenomeno proprio perché il design ha rappresentato una forma di energia assoluta nel creare una proposta competitiva, per cui i risultati ne sono diventati conseguenza. È molto, molto diverso costruire un'azienda con l'intenzione di creare business utilizzando il design, o creare un'azienda utilizzando design per creare business. Sembra una piccola differenza. Un gioco di parole, ma non è così. Nerio Alessandri, ci può aiutare in pochissimo tempo a capire le dimensioni di questo fenomeno, anche se lei fosse l'ultima persona a cui dovremmo chiederlo, ma indubbiamente Technogym è un fenomeno planetario. I numeri, quali sono di questo fenomeno? Noi abbiamo in questi 20 e oltre anni di vita creato circa 55.000 installazioni nel mondo, che sono palestre, centri benessere e centri di riabilitazione in ospedali, hotel, aziende, palestre pubbliche e nel mondo, diciamo, anche corporate, quindi aziende. Circa 22-23 milioni di persone usano regolarmente tutti i giorni i nostri prodotti in giro nel mondo in 100 paesi. Il nostro fatturato è 90% all'estero e internazionale e molti paesi dicono oggi faccio mezz'ora di Technogym, ma anziché dire oggi faccio mezz'ora di attrezzi. Quindi in alcuni paesi come per esempio l'Inghilterra, che è il nostro primo fatturato, Technogym è diventato parte dello stile di vita delle persone. Va ricordato un fatto, e sarò concludo, che oggi la sedentarietà, l'obesità e le malattie cardiovascolari e l'invecchiamento della popolazione rendono insostenibile l'economia. Tutti voi parlate di economia sociale e noi abbiamo una fortissima responsabilità sociale in questo. Non ci può essere un'economia sostenibile senza la salute delle persone. Noi come Technogym abbiamo una missione che va oltre quella industriale a quella di tipo tecnologico, che è quella di aiutare le persone a vivere meglio. Noi sosteniamo che se ci sono persone in salute ci saranno anche sarà anche il pianeta in salute, quindi healthy people, healthy planet. Di qui bisogna parlare di prevenzione, bisogna parlare di stili di vita e di come educare i bambini e i giovani, soprattutto attraverso le scuole, alla salute. Grazie Presidente, lei è anche un grande venditore oltre che un grande industriale, decisamente convincente, quasi quasi torno in palestra anch'io. A presto, complimenti. grazie Presidente. Grazie, un saluto a Stefano Marzano, grazie. Stefano, indubbiamente, dico, se qualcuno mette in dubbio che possa sopravvivere ancora uno spirito, un'anima e anche un corpo nel Made in Italy, indubbiamente Alessandri è una delle più significative espressioni. Ma senza dubbio Alessandri dimostra che una visione può dare una forma concreta ad un'avventura imprenditoriale e può senza dubbio crearne il successo. Se poi questa visione è basata anche sulla comprensione di ciò di cui la gente ha bisogno, non necessariamente di ciò che la gente vuole, è una grande differenza, è vedere prima che gli altri vedano di cosa abbiamo bisogno, e chiaramente rendendosi conto di quella che è la trasformazione nel sociale, nell'economia, nella vita quotidiana e nello stile di vita di tutti, rendersi conto di questa grande sfida posta dalla salute e da tutto ciò che viene implicato dalla salute, i costi, la prevenzione, avere questa visione e investire e giocare tutte le proprie carte su questo è chiaramente una capacità imprenditoriale forte. Importante. Adesso ti interrompo perché dobbiamo rapidamente, Stefano, andare a chiudere, perché adesso volevo fare un piccolo passaggio, poi torniamo con te a concludere, da un universo design a un altro, per esempio a quello della grande star, o così detta o autodefinita, del design, Philip Stark. Chi sono? È molto semplice. Un architetto giapponese, uno scenografo americano, un designer industriale tedesco, un direttore artistico francese e sono un designer di mobili italiano. Perché sono un designer di mobili italiano? Perché soltanto in Italia esistono persone degne di questo nome. Quando parli a fabbricanti di mobili francesi, generalmente lo evito, hai davanti delle persone che dicono: «Allora, signor Stark, pare che i suoi disegni rendano quattrini. Non può disegnarmi qualche mobile? Mi pare interessante». A quel punto dico loro: «Lo metterete a casa vostra?» Risposta: «Ah no, la mia vita è la mia vita e la mia industria è la mia industria». Li saluto e arrivederci. Philip Stark è indubbiamente una delle grandi firme nel mondo del designer. Noi abbiamo voluto parlare di lui perché esistono anche dei fenomeni, non tutti sono come Stefano Marzano, come Nelio Alessandri, voglio dire, operativi e alla portata. Ci sono anche le grandi star, che si chiamano meritino meno, e poi ci sono anche queste nuove figure, per esempio Max Bosio. Buongiorno Max Bosio. Sì, buon dì, salve. Che è un italianissimo, ha studiato molto negli Stati Uniti e dagli Stati Uniti si porta dietro questa specificità di una forma di design molto singolare, che è quella del brand design, cioè il design del marchio, che non è più soltanto una questione grafica, ma diventa una funzione strategica attraverso il quale si interpreta il business e soprattutto si comunica il business. È così, Max Bosio? Sì, devo fare una precisazione, che in realtà c'è una grossa differenza tra design del brand o la differenza tra marca e marchio. Un conto è disegnare un marchio, un conto è disegnare una marca. Per cui sono due cose molto diverse, certo. E con dei concetti, con dei significati molto, molto diversi. Nel caso della marca è un qualche cosa che riguarda gli aspetti più strategici, tutto ciò per cui un'azienda è riconosciuta e identificata. Il marchio evidentemente rappresenta uno di quegli asset visuali che identificano l'identità e che rappresentano poi l'insieme dei valori per cui l'azienda in qualche modo si relaziona col resto del mondo. Nel nostro caso il brand design, quindi dicevamo, è una funzione strategica e anche creativa, immaginiamo, non solo ma anche creativa, vero? Assolutamente sì, diciamo che l'attività di brand o comunque il design, la parola design all'interno di quelle che sono le attività di branding evidentemente introduce una dimensione creativa e fortemente ideativa, anche se ci tengo a sottolineare non è un'attività mirata semplicemente ad abbellire gli aspetti di identità visuale di un'azienda, ma è un'attività che ha una forte vocazione, dovrebbe avere una forte vocazione strategica proprio per definire qual è il ruolo, qual è il posto all'interno del mercato che un'azienda occupa e qual è il modo con cui il mondo la vede, la identifica, la riconosce. C'era un altro aspetto che ci incuriosiva molto della sua attività, che è la tridimensionalità del brand, che vuol dire esattamente? Diciamo che è un'attività, quantomeno in Italia l'attività di retail branding abbastanza nuova come concetto, cioè le aziende stanno cominciando a capire che il brand non è solo un fatto bidimensionale legato a quelli che sono appunto anche gli aspetti più di identità visiva, per cui marchio, sistema di visual identity, ma è anche un fatto esperienziale, tridimensionale, per cui quelle aziende, e non parlo soltanto dei retailer, ma di tutte quelle aziende che in qualche modo entrano nel mondo fisico e si relazionano col mondo fisico, hanno bisogno di trasferire un'esperienza col proprio brand, per cui l'attività di progettazione e di creazione dell'esperienza con la marca e con il brand nella tridimensionalità dello spazio fisico sta diventando un'attività su cui le aziende, quantomeno italiane, stanno guardando con grande interesse e quantomeno stanno cominciando ad approcciare con una certa, come dire, serietà e impegno. Bene, grazie Max Bosio, in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie a voi. Stefano Mazzano, dobbiamo proprio chiudere in due secondi, mi piace chiudere con te con una rievocazione. Io ricordo i tempi ancora, anche se sono giovanissimo, del bevete Coca-Cola. Allora le regole erano diverse, anche tu sei giovanissimo, quindi non hai vissuto appieno, puoi dire, la advertising o la comunicazione elementare. Oggi però è decisamente molto complesso e olistico, bisogna tenere in conto tutti gli elementi che compongono il vivere economico e sociale. Io vorrei paragonare più un brand ad una persona e alla relazione che esiste fra le diverse persone, quindi un brand ha una relazione con i propri customer, con i propri consumatori, e questa relazione è fondamentalmente basata sulla fiducia, per cui non è soltanto una questione oggi di apparire o di comunicare, ma è veramente una questione di interazione, di relazione, per cui il comportamento del brand è estremamente importante. Tutto questo è tanto più vero quanto più la crisi globale, la crisi energetica, ambientale e quant'altro stanno chiaramente sospingendoci tutti verso un rapporto più trasparente, più etico e quindi più fiduciario. Stefano Mazzano, grazie di aver partecipato a questa puntata di Ferribot. Ciao. Arrivederci. Grazie a Anita Panizza in redazione e alla regia di Valeria Bernardi. Vi ricordo che su www.radio24.it potete riascoltare questa e le altre puntate. A risentirci.